Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Caldiron Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Esami di terza media alle porte, ma nelle scuole regna l'incertezza. Il ministro Gelmini boccia l'idea di alcune scuole di adottare il 6 rosso per i ragazzi che presentano un'insufficienza. E allora che fare? Ne parliamo fra pochissimo, prima le news della settimana. Un contratto di disponibilità con il quale, attivando anche fondi delle regioni, si garantirebbe ai precari un sostegno economico con uno strumento che sia una via di mezzo fra la vecchia indennità di disoccupazione ed eventuali supplenze temporanee. È l'ipotesi proposta dal ministro dell'Istruzione per risolvere la questione degli insegnanti precari con contratti annuali. Il contratto di disponibilità interesserebbe circa 18.000 docenti e avrebbe la durata di un anno. Di questa ipotesi si è parlato qualche giorno fa in un incontro fra i segretari generali dei sindacati della scuola e il ministro Maria Stella Gelmini. Bullismo sempre più al femminile, 7 ragazze denunciate a piede libero a Roma per lesioni gravi e violenza privata per atti di bullismo ai danni di altre studentesse che venivano addirittura picchiate e a cui venivano anche bruciati i capelli. È morto mentre festeggiava la fine dell'anno scolastico. È successo ad un ragazzo di 15 anni scomparso nel fiume Livenza, in provincia di Pordenone, caduto in acqua mentre era con i compagni subito dopo il suono dell'ultima campanella dell'anno scolastico. La prossima settimana iniziano gli esami dunque di terza media, una media che quest'anno è finita al centro di un gran bel pasticcio. Tutto nasce dal fatto che quest'anno sono tornati, lo sapete, i voti che hanno sostituito i giudizi. E per essere promossi o essere ammessi all'esame bisogna avere tutte sufficienze, cioè almeno il 6. Eppure può capitare che uno studente sia comunque da promuovere, anche se ha un'insufficienza. Molte scuole si sono allora inventate il 6 rosso per far capire che è un 6 fasullo in qualche modo, che nasconde in realtà un'insufficienza. Ma il ministro Gelmini ha bocciato l'idea del 6 rosso. Dunque nelle scuole c'è davvero molta incertezza in questi giorni. Ne parliamo con un nostro ospite che ben conoscete, Giorgio Rembado, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Se volessi buttarmi sull'ironia direi speriamo che tutte le incertezze e le insicurezze siano i problemi, siano di questa natura. Nel senso che è un problema che è sempre esistito, si è sempre gestito con totale tranquillità nell'ambito della secondaria superiore dai tempi dei tempi. Però nella secondaria superiore si può anche dare il debito, comunque si possono fare i corsi di recupero e poi a settembre bisogna passare di nuovo l'esame. Nel caso delle superiori di primo grado, delle medie, questo non è possibile. E qui sta la differenza, lei ha toccato veramente il punto della questione. Che non è una differenza da poco, perché a quel punto i presidi o comunque gli insegnanti sono costretti all'ambiguità o peggio ancora all'ipocrisia, devono mettere il 6 anche se 6 non è. Non sono d'accordo su questo giudizio, quindi non lo faccio mio, ma ritorniamo alla differenza. La differenza sta nel fatto che nella secondaria superiore si sospende il giudizio e non si provvede a una deliberazione formale di promozione o di mancata promozione. Nell'ambito della scuola media questo non è possibile e quindi la valutazione deve essere fatta in via definitiva e non sospensiva. E da questo punto di vista c'è qualcheduno che si è inventato il discorso del 6 cosiddetto rosso. Ora il 6 rosso di per sé è un ossimoro, nel senso che da una parte col 6 indica la sufficienza, col rosso indicherebbe l'insufficienza e da questo punto di vista quindi non è assolutamente accettabile. Il rosso a mio avviso si può interpretare come una integrazione dell'informazione che il consiglio di classe dà alla famiglia, allo studente, all'alunno in primo luogo, ma anche alla sua famiglia per sottolineare come in quella particolare materia ci possono essere ancora delle lacune da colmare. Però è arrivato lo stop al 6 rosso, no? E con una circolare il ministero ha chiarito che insomma il 6 rosso non si può mettere, quindi a questo punto cosa succede? Sì, la circolare ha preso posizione su questo. A me pare che il rosso, essendo semplicemente una questione di tipo convenzionale, può valere come altre modalità di comunicazione dello stesso tipo. Le faccio altre 4 o 5 ipotesi, così rispondo anche alla sua domanda. si poteva con il pennarello giallo individuare la materia, si poteva circolettare, mettere un asterisco, mandare la lettera alla famiglia, convocare i genitori dell'alunno e parlare con loro in modo più appropriato, perché così al di là di una comunicazione troppo sintetica si poteva dare anche qualche indicazione su come provvedere alla migliore preparazione dello studente, eccetera eccetera. Le modalità di comunicazione variano e sono da individuare dal livello della scuola, dalla singola scuola, dal singolo consiglio di classe, e quindi non mi pare che su questo ci debba essere una determinazione collettiva o istituzionale che comporti un'assunzione di responsabilità, una presa di posizione da parte del Ministero. Di fatto, in uno scrutinio, un ragazzo ha quasi tutte sufficienze, qualche insufficienza o addirittura un'insufficienza. È evidente che il consiglio di classe decide per la promozione. Stiamo parlando sempre di ragazzi delle medie. Però non si mette il 5, non si mette il 4, si metterà comunque il 6. Se il 6 è il livello al di sotto del quale non è ammessa la bocciatura, è ovvio che bisogna partire dal livello della sufficienza. Il livello minimo della sufficienza è il 6 e quindi si dovrà catalogare e classificare col 6. E poi sta al consiglio di classe, all'insegnante, al preside, integrare la comunicazione, come abbiamo detto, nelle forme che riterranno più opportune e più efficaci. Ogni preside, ogni scuola individerà con la sua fantasia quale può essere il metodo più efficace. Diciamo così, se vogliamo metterla, diciamo, in modo enfatico, con la fantasia, ma semplicemente si tratta di trovare una via di comunicazione che sia utile tra la scuola e la famiglia. Lunedì con il Sole 24 Ore, in edicola, in omaggio con il quotidiano, il dossier Università, un appuntamento molto importante perché davvero in questo periodo si stringe un po' il cerchio per i ragazzi che devono scegliere l'università fra le varie opzioni. Sono qui con Franca De Ponti, che ha curato il dossier. Buongiorno Franca. Buongiorno. Allora, dentro c'è davvero di tutto, ci sono informazioni molto utili. Ecco, diamo un'indicazione su che cosa possono trovare sul dossier. Diciamo che il dossier è diviso sostanzialmente in quattro parti, tre cartacee e una online, perché per la prima volta quest'anno pubblichiamo le tabelle con tutti i corsi dell'università solamente in versione online. Le parti cartacee, il dossier è abbastanza voluminoso e ha una prima parte che dà delle indicazioni per quanto riguarda la scelta dell'università, la scelta dell'accesso, ci sono indicazioni sulle scuole di eccellenza, i collegi, i ranking, i doppi titoli, le tasse, come pagare, come iscriversi. E un'altra parte è dedicata allo sportello matricole e diciamo che prosegue su questa parte proprio di servizio, perché indica anche, non so, i doppi titoli. Molte università hanno attivato dei titoli in tandem con università straniere, quindi il titolo vale nei due paesi se si rispettano determinati requisiti. Poi c'è una terza parte che invece è dedicata alle aree, quindi l'area scientifica, l'area letteraria eccetera, in cui si fa il punto sia su come sta evolvendo la didattica sia sulle prospettive di lavoro di questi giovani. Qualche indicazione sui test d'ingresso? Sappiamo che quest'anno ormai da qualche anno si stanno diffondendo fra le università anche quelle non a numero chiuso. Ecco, questo è una cosa che va ricordata specialmente a chi si accinge proprio adesso a entrare all'università, perché ci sono due tipi di test. Le università che propongono i test a numero chiuso per le aree come per esempio medicina, in cui è previsto un filtro all'ingresso e un numero predeterminato di posti, quindi insomma chi va a fare il test, se rientra nella graduatoria nel numero entra, altrimenti è fuori e non può iscriversi. Però per via di quello che prevede la legge di riforma di qualche anno fa dell'università, mano a mano le università stanno attivando nei diversi corsi, un po' a macchia di leopardo, dei test che non impediscono l'iscrizione, però fanno sì che uno possa vedere, diciamo così, possa misurare il grado di conoscenze che ha di quella materia, insomma, in cui vuole proseguire gli studi. Anche perché le università, lo diciamo, da qualche anno e soprattutto adesso con l'avvento del ministro Gelmini, sono chiamate comunque a risparmiare, sono chiamate a guardare bene come effettuano le spese, e mantenere, come succedeva una volta, tanti fuori corso, insomma, è veramente pesante per le casse delle università. sicuramente pesante per le casse dell'università, ma soprattutto è assolutamente controindicato per chi si iscrive. Tanto è vero che la stretta, diciamo, che è stata data sia dal precedente che da questo governo alla proliferazione di corsi di laurea francamente inutili e dai nomi improbabili, sta cominciando a dare i primi frutti. Tanto è vero che già l'anno scorso c'era stato il taglio di un 6% dei corsi. Quest'anno abbiamo calcolato che anche qui c'è già stato finora, teniamo conto che i numeri non sono ancora del tutto definitivi perché le università possono proporre ancora nomi di corsi fino a metà giugno, comunque di un altro 6%. Grazie mille Franca. Grazie e saluti a tutti. È tutto, ci risentiamo sabato prossimo, come sempre alle 12.45.